Italia in controluce. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. L'appuntamento con Italia in controluce il venerdì è dedicato alla scuola. Oggi parliamo degli studenti stranieri. Quanti sono? Come si trovano nel nostro paese? Dove si concentra la loro presenza? La parola a Maria Piera Ceci. Scuola in controluce. Philip, 19 anni, è arrivato in Italia dalle Filippine 3 anni fa. Ecco cosa pensa dei suoi compagni di scuola italiani. Loro sono non sono seri in capi dei studi, fanno sempre il casino in classe. Alcuni studiano veramente, ma non sono così troppo serio. E poi come si comportano? A me sembrano piccoli, sembrano bambini, perché quando un professore spiega qualcosa, loro stanno lì a fatti loro. Nella mia classe litigano sempre e poi non rispettano gli altri e non rispettano anche gli insegnanti. Rossio, 20 anni, è arrivata dal Salvador 4 anni fa. Anche lei non è tenera con i suoi compagni di scuola italiani. Non studiano. Cioè, no. Diciamo che in classe al massimo siamo in 3 ad prendere dei buoni voti. Io, un'altra mia compagna che è del Perù, un'altra che è... lei è dell'Egitto. E gli italiani sono pochi, diciamo. Hanno sempre dei debiti alla fine dell'anno oppure vengono bocciati. Cioè, già quest'anno sono stati bocciati in 5 della mia classe italiani durante le lezioni. Beh, di solito parlano fra di loro, si fanno i fatti suoi, i prof si arrabbiano. Per esempio a me chiedono dei suggerimenti a volte nelle interrogazioni. E Filippo e Rossio sono 2 degli oltre 700.000 studenti stranieri sui nostri banchi nello scorso anno scolastico, quasi l'8% della totale popolazione studentesca, secondo i dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Fondazione ISMU, iniziative e studi sulla multietnicità. I romeni si confermano il gruppo più numeroso, seguiti da albanesi e marocchini. La novità è che aumentano gli alunni moldavi, ucraini ed indiani. Ma leggiamo meglio questi dati, lo facciamo con l'aiuto di Maria Grazia Sant'Agati, cura del rapporto per l'ISMU, cominciando proprio dal concetto di alunno straniero. Questi giovani stranieri che stanno crescendo all'interno del nostro sistema scolastico sono per la metà, insomma, fondamentalmente giovani che sono nati nel nostro paese, e invece c'è una piccolissima percentuale di giovani che sono entrati per la prima volta nel nostro sistema scolastico nell'anno scolastico passato, fondamentalmente. Quindi c'è questa componente molto importante che è cresciuta negli ultimi anni, proprio dei nati in Italia, quindi ragazzi che sono stati socializzati interamente nel nostro sistema scolastico. Dove si concentrano, quali sono le zone in cui si concentra il maggior numero, percentualmente naturalmente, di alunni stranieri? Perché anche da questo punto di vista c'è qualche novità. Beh, ci sono novità e conferme, come al solito nei dati. La Lombardia ancora al primo posto, circa un quarto, quindi il 25% degli alunni stranieri è iscritto alle scuole lombarde. E poi seguono altre regioni del nord, centro Italia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio. Se parliamo invece di città? Di città abbiamo grandi, come dire, metropoli come Milano, Roma, Torino, ma anche Brescia, Bergamo, che accolgono il maggior numero di allievi stranieri. Mentre a livello di incidenza percentuale abbiamo soprattutto province di media e piccola dimensione che hanno un numero molto elevato di alunni stranieri, come Piacenza, Prato, Mantova, Asti, Reggio Emilia, quindi contesti territoriali che confermano anche la diffusione di questa presenza, soprattutto delle famiglie, quindi con giovani, con minori che sono inseriti nelle scuole italiane. Che spesso, come dicevamo, sono nati qui, e qui insomma ci sarebbe tutto un discorso molto ampio da fare sul fatto di consentire loro di avere la cittadinanza italiana, cosa che oggi non accade, perché sono nati qui, conoscono l'italiano più o meno come i nostri figli, e quindi insomma vabbè, ma questo è un discorso politico, un discorso molto acceso. Molto acceso. preso. Ecco, dicevamo, aumentano dunque, continuano ad aumentare gli studenti stranieri nelle nostre classi, un aumento che però comincia a rallentare. Certo, il trend è quello di una, come dire, di una stabilizzazione, continuano a crescere ma sempre meno. L'incremento dell'ultimo anno, degli ultimi due anni, è stato circa di 38.000 studenti stranieri in più, mentre nell'ultimo decennio avevamo delle percentuali, anche un incremento di crescita molto più elevato. E questo ci dice proprio della stabilizzazione, del fatto che il fenomeno si sta assestando, possiamo dire, anche a livello numerico, nei tassi di crescita. Certo, forse anche la crisi economica ormai globale spinge meno, no? A lasciare gli altri paesi per venire nel nostro, che forse è meno attrattiva in questo momento. L'effetto della crisi e nel nostro paese, ma anche magari un miglioramento economico in alcuni paesi d'origine, la Romania, ha fatto sì che ci sia anche un flusso di rientro delle famiglie. Assolutamente. Quindi molti sono nati in Italia, però insomma non parliamo tanto in questo caso di scuole elementari, scuole primarie, ma fra i più grandi. Restano comunque gli adolescenti stranieri, o comunque insomma che provengono da famiglie straniere, più fragili nei confronti degli alunni italiani. Diciamo che il rapporto è focalizzato sugli studenti nelle scuole secondarie di secondo grado, e mette in luce ancora una volta alcuni svantaggi che i giovani stranieri hanno nel sistema di istruzione, in particolare la questione della scelta della scuola superiore sembra essere un indicatore di questa situazione di svantaggio, ovvero gli studenti stranieri rispetto a quelli italiani si concentrano molto negli istituti professionali, il 40,4% degli studenti stranieri si concentra negli istituti professionali e poi negli istituti tecnici il 38%, a differenza degli italiani che invece prediligono la scelta dei licei, il 43,9% degli adolescenti italiani è iscritto in un liceo. Come dire, questa concentrazione che è stata definita, come dire, canalizzazione formativa, segregazione formativa anche dai diversi studi su questo gruppo di adolescenti, mette luce nel fatto che la scelta, come dire, non è una scelta libera, no? Ma è una scelta molto condizionata da una serie di fattori che sono anche fattori legati all'essere straniero. Quindi di fatto ci sono dei fattori personali, la necessità di entrare più rapidamente nel mondo del lavoro, le esigenze delle famiglie, ma anche problemi di orientamento scolastico, no? Il fatto che queste scuole vengono consigliate maggiormente per gli alunni stranieri, anche quando magari si tratta di alunni con capacità, attitudini verso percorsi di studio di tipo liceale, oppure anche la scarsa conoscenza da parte delle famiglie del sistema scolastico italiano, e quindi non sapere, anche non avere gli strumenti, non avere una rete anche di supporti, di conoscenze che possa consentire di fare una scelta adatta al proprio figlio. Poi insomma, non ultimo, c'è anche il discorso che comunque parlavamo poco fa di fragilità, che dipende da tantissimi fattori, ma di fatto le bocciature sono in percentuale doppie rispetto agli alunni italiani. Alunni italiani, sì, ci sono degli altri indicatori, no? Un dato particolarmente ancora più grave di quello delle bocciature è il dato del ritardo. Nelle scuole superiori gli adolescenti stranieri sono per il 70% in ritardo nel percorso scolastico, ovvero che sono inseriti in classi non corrispondenti alla propria età anagrafica, sono indietro nel loro percorso di studio. Gli italiani in questa situazione sono il 25%. Sul tasso delle ripetenze c'è un divario a sfavore degli stranieri, ma non così evidente, e questo ci dice che quindi il percorso incidentato, diciamo, degli alunni stranieri è molto condizionato proprio dal loro percorso migratorio, dalla fragilità, come dire, dell'essere straniero, dalla condizione giuridica, dal passaggio da un sistema scolastico all'altro e da un rallentamento inevitabile quasi, no, nel percorso di studio. Questo già, no, il ritardo e le altre differenze sulla riuscita sono meno evidenti nei nati in Italia, e questo ci dice proprio del fatto che è una condizione, come dire, non è dovuta al fatto che gli stranieri riescono peggio degli italiani, vanno peggio a scuola degli italiani, ma è legato al loro percorso migratorio. E questo era il nostro approfondimento sugli studenti stranieri. Vi ricordo che Italia in Controluce tornerà lunedì alle 13.30 e non alle 6.30. Una buona giornata da Alessandra Tedesco.